piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. Quindi l'eterno riposo dona. Siamo in due, Barbara. Splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Allora, Matteo. È un fatto che gli esperti, compreso il ministro della salute, sono andati in televisione a rassicurarci dicendo che in Italia il rischio era zero. Allora, veniamo a questo ragazzo. Questo ragazzo fa questo video veramente privato. Io lo amplifico. Ma se l'Avigan e l'AIFA, l'agenzia del farmaco, dà l'ok a sperimentarlo, Zaio lo vuole sperimentare, Fontana lo vuole sperimentare, e che prova è? Ha reso una risposta, poi Red Ronnie, che è stato il primo a divulgarlo in Italia. Una cosa importante io vorrei chiedere: se secondo voi, io questo video, ripeto, l'ho fatto veramente in maniera casuale, ma se io mi sono chiesto tantissime volte, se io non l'avessi fatto così, realmente sarebbe arrivato dove è arrivato? Realmente avrebbe scosso qualcosa? Immensi livelli, quelli che abbiamo visto ieri sera in televisione, poi anche su reti molto importanti, si alternavano Barbara D'Urso e Salvini che recitavano l'Eterno Riposo, Giletti che aveva ospite Red Ronnie e Cristiano Aresu, la nuova star, che poi è apparsa anche su Canale 5. È il ragazzo, cioè 40 anni passati, romano, che stava un giorno a Tokyo e ha raccontato che secondo lui i giapponesi erano tutti contenti, felici, soddisfatti, andavano per strada perché avevano la ricetta di salvezza al coronavirus, che si chiamava Avigan, questo farmaco, che è stato preso molto sul serio, e talmente sul serio che adesso il signor Cristiano Aresu è diventato una star della televisione. È bello che c'è anche un linguaggio, un metalinguaggio molto particolare del suo apparire in televisione, questo signore di cui si sa poco, qualcuno dice che sia un farmacista, ma non risulta iscritto a nessuna lista di ordini professionali, almeno leggo l'inchiesta, l'approfondito pezzo che ha fatto sul Tempo Giada Oricchio, dice ma farmacista non è, medico non è, lui dice che ha dato qualche esame, si interessa di videogiochi, di tatuaggi, infatti è tutto tatuato. Però ieri era in televisione su due reti nazionali a parlare, si era messo anche una giacchetta bianca, così dava l'impressione che avesse bene o male a che fare con qualcosa che riguarda il mondo della clinica, e cadeva dalle nuvole, dice ma sai, ho detto quello che pensavo, quello che dicevo, poi Red Ronnie mi ha ripreso. Red Ronnie parlava come se fosse un interlocutore con il vice ministro della salute, con il capo della protezione civile, parlava come se fosse un interlocutore attendibile, dice che lui aveva sentito dire, aveva detto. Red Ronnie mostrava il display del suo telefonino dicendo che lui aveva delle notizie, che in Giappone realmente stanno lavorando su questo Avigan, e su questo Avigan si è intessuta comunque una seria narrazione che ha occupato i massimi vertici istituzionali nel campo della salute, della ricerca, del farmaco, e ne hanno parlato tutti i giornali, ne abbiamo parlati tutti noi. Beh, oggi vorrei aprire una riflessione che sembra un po' per addetti ai lavori, ma richiede il contributo anche di chi mi ascolta, come ogni giorno considero il campione privilegiato in questa particolare circostanza, in questo momento particolare, in questo orario particolare, a questa trasmissione radio che ormai da 15 anni faccio con il supporto del pubblico, per capire esattamente qual è la vostra percezione rispetto alla maniera di informare in questo momento. Noi, se vogliamo porci in maniera schietta di fronte al problema, noi informatori dobbiamo dire che accettare che i tempi della scienza siano diversi rispetto ai tempi di chi deve informare, chi vuole notizie fresche, chi vuol dare dati, vuol dare numeri, vuol dare informazioni. Questa mattina sentivo un esperto che alla domanda di un collega diceva c'è un cauto ottimismo, dice mi domandate tutti la stessa cosa, certo. Che noi dobbiamo avere delle semplificazioni, dobbiamo anche in qualche maniera evitare di seminare il panico, dobbiamo anche essere interessanti, quindi dire cose originali, e questo oggi è estremamente difficile. Primo, perché il panel dei cosiddetti esperti alla fine rischiano di diventare delle star della comunicazione e non avere nulla da dire, perché È difficile che uno scienziato abbia da dire qualcosa a un giorno di distanza. Non è come fabbricare i cornetti in un panificio, ti alzi la mattina, impasti, metti in forno, tiri fuori i cornetti tutti fatti. Ci sono tempi molto lunghi, molto lunghi. Pensate che si è cominciato a parlare di vaccino del vaiolo alla fine del Settecento, ci sono avuti quasi 200 anni perché il vaiolo fosse debellato. Questo oggi mi suggerisce di approfondire questo argomento per quanto possibile. Qual è il compito e la deontologia di chi informa, la necessità di chi informa comunque ogni giorno ha uno spazio aperto che deve riempire con delle notizie, raccontare quello che succede, quando la fonte primaria delle nostre notizie è lo scienziato. E lo scienziato lavora in tempi diversi, in una dimensione diversa. Mi faccio aiutare in questa mia riflessione da chi ha strumenti per farlo assolutamente molto più potenti dei miei, professor Enrico Bucci, buongiorno. Buongiorno. Professor Enrico Bucci è un biochimico, è professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, ma mi interessa perché io sono iscritto al suo sito, che è una newsletter che tutti i giorni pubblica pezzi interessanti, che è Scienza in Rete, che è un giornale di attualità e cultura scientifica che deve ridare la giusta dignità alla scienza. Prendiamo un caso, una case history, vedo che lei ha scritto proprio un pezzo su questo, il caso Avigan. Come pensa lei che oggi debba essere giudicato e considerato il signore che tutto sommato, non pensando deve fare poi tutto questo casino, un giorno ha pensato bene, come fanno tanti, come facciamo tutti, di farsi un suo video nei suoi social e raccontare che ha fatto questa grande scoperta? Qual è stata la progressione dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, di questa facezia buttata in rete? Guardi, per prima cosa evitiamo noi stessi, diciamo, di dare delle notizie non troppo corrette. Scienza in Rete non è il mio sito, Scienza in Rete è il sito di un'associazione che si chiama Gruppo 2003 per la ricerca, che è fatto dagli scienziati che hanno il più alto, il miglior giudizio, diciamo, internazionale in Italia. Io su Scienza in Rete pubblico perché ogni tanto sono invitato a pubblicare, ma certamente non è il mio, diciamo, di sito. Sì, dico suo perché, diciamo, io partivo da seguire lei e seguo i suoi articoli, sì, corretto, sì, giustamente. Sì, ma no, ma diciamo questo dignità offre, molto più alta, è un ottimo esempio di quello che può succedere a chi come lei o anche come me, come chiunque, è anche particolarmente attento, diciamo, a comunicare. Succede che una distrazione o anche una sciocchezza, se non viene corretta, cioè non se si sbaglia è normale, accade, ma se non dovesse essere corretta, come nel caso specifico, per fortuna, solo perché, diciamo, è un'informazione che conosco bene, ma se no non avrei potuto correggerla, viene, diciamo, comincia a propagarsi. Nel caso poi in cui ci sono dei soggetti, come nel caso di Avigan, che hanno proprio addirittura interesse ad attirare l'attenzione su di sé con qualsivoglia mezzo, e questo è il caso non solo di chi ha creato il video su YouTube di Avigan, perché non ci sono altri scopi evidenti, diciamo, per un video del genere, ma soprattutto di chi poi in televisione invita questo personaggio per accrescere l'audience. Quello che appare evidentissimo è che non tanto i tempi della scienza sono incompatibili con i tempi della notizia, ma la voglia di audience è incompatibile con la possibilità di fare corretta informazione. Quindi il meccanismo di cui siamo tutti in questo momento servi, e ci metto dentro anche la comunità scientifica, perché in una forma molto particolare, che è quella della citazione alle proprie pubblicazioni che serve a fare carriera, siamo tutti più o meno dominati da una cosa che è nata nel mercato, che è far conoscere, farsi conoscere e far conoscere le cose che uno dice a qualunque costo. Cioè, siamo tutti in qualche modo ripagati dall'attenzione di un pubblico, gli scienziati dall'attenzione del pubblico, dei propri colleghi, e quindi che rincorrono in maniera attiva, perché a quello sono legati finanziamenti e progressione di carriera, e più in generale i cittadini, anche qualcuno senza arte né parte come questo signore che è andato su YouTube, all'attenzione del pubblico. Quindi la condizione di base è che noi viviamo in questo momento in una società che dà un peso eccessivo all'attenzione istantanea che viene ricevuta, che non è un peso che diamo noi semplicemente per per tratto narcisistico, ma che è un peso che si traduce concretamente in guadagni personali immediati, non solo di visibilità, ma anche, diciamo, guadagni economici. Quindi la precondizione in cui tutti ci posso dire una cosa, è professore, questa. Ieri ho fatto un giro di telefonate con degli amici miei che si occupano di editoria. Dice che già sono pronte le pubblicazioni per quando cominceranno a riaprire le librerie, le case editrici cominceranno a stampare libri di un'infinità di esperti, con tutta la dignità a cui voglio naturalmente riconoscere, scriveranno libri sul coronavirus. Certo, certo, saremo invasi, esattamente come in questo momento la letteratura scientifica è invasa da articoli di qualità molto più bassa del solito, perché nella fretta di dare notizie utili, come dire, chiunque pubblica qualunque cosa, così saremo invasi da un'ondata di libri sull'argomento, di cui moltissimi avranno degli obiettivi degnissimi, cioè per esempio quelli di approfittare della rinnovata attenzione del pubblico alla scienza per far filtrare, diciamo, qualche messaggio utile al pubblico, però nel loro insieme creeranno un effetto opposto, cioè creeranno un effetto di schiacciamento di qualunque informazione in una cacofonia troppo ampia e diffusa. Quindi questo sarà certamente un momento atteso. Fortunatamente i libri, diciamo, che arriveranno non servono a guidare le decisioni pubbliche. Invece la cosa che io trovo allucinante è che un video su YouTube può ispirare l'azione politica e poi anche l'azione delle istituzioni deputate, diciamo, al controllo della sperimentazione clinica. Ecco, come lo spiega questo, professore? Lei fa un parallelo con la questione Stamina, che sembra già dimenticata, ma fu anche abbastanza clamorosa e vergognosa. Poi tutti l'abbiamo rimessa in cantina e via dicendo. Come si spiega che è bastato questo video per far muovere in maniera così immediata importanti organismi che dovrebbero determinare quella che è il criterio di evidenza scientifica anche nelle loro scelte? Perché in Italia non abbiamo una comunità scientifica che è indipendente dalla politica, specialmente nelle istituzioni scientifiche di controllo come l'AIFA, come l'Istituto Superiore di Sanità, le nomine politiche sono all'ordine del giorno. Lo spoil system viene applicato anche per i vertici delle massime istituzioni scientifiche del paese. Questo determina una forte capacità di pressione della politica su queste istituzioni, e se la politica identifica come ripagante diciamo un mito popolare da inseguire, questo si traduce in pressioni sulle istituzioni scientifiche. Quindi il vero problema attuale di questo paese è la scarsità di istituzioni scientifiche realmente indipendenti dalla politica. Ne abbiamo pochissime, come per esempio, se vogliamo fare un esempio, abbiamo l'Accademia dei Lincei, ma quelle che abbiamo non sono istituzioni che hanno altro che un potere consultivo, quindi quelle indipendenti hanno semplicemente al più un potere consultivo e di indirizzo. Le istituzioni invece che hanno ruoli esecutivi, come l'AIFA, come altre, come lo stesso CNR, come tantissime delle istituzioni scientifiche del nostro paese, sono troppo vicine alla politica, ne risentono troppo fortemente, e questo in condizioni particolari come l'attuale determina anche l'esercizio di una pressione molto forte da parte della politica su queste istituzioni. Ricordiamoci che noi viviamo in un paese dove è stato possibile far dimettere il capo dell'Agenzia Spaziale Italiana per pressione politica. Quindi, in assenza di istituzioni realmente al di fuori del controllo, soprattutto della possibilità di esercitare pressione da parte della politica, quando ci sono condizioni di emergenza, queste pressioni vengono esercitate e le conseguenze possono essere, perché Avigan non sappiamo ancora se è stato autorizzato o no, ma possono essere disastrose. Voglio anche ricordare... comincio a dare la voce, professore, a qualcuno dei nostri ascoltatori a cui pongo questa domanda: chi vi dà in questo momento più fiducia nell'informazione sul contagio? Chi guardate, chi ascoltate, cosa leggete? Oggi c'è una bella pagina sul Foglio di un filosofo, Jean-Pierre Le Goff, parla del virus e ritorno del tragico. Ritorna il senso di sicurezza legato al rapporto con la scienza, però la mediazione della scienza è una delle cose più difficili in questo momento. Stefano, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, a me è capitato il caso contrario, cioè volendo segnalare che noi impegnati nella cooperazione e lo sviluppo in paesi del terzo mondo, in Amazzonia, dove le popolazioni sono esposte al raffreddore, per ora è una malattia grave, volevamo segnalare agli epidemiologi un farmaco italiano è usato nel mondo, antivirale, antinfluenzale, non voglio adesso fare il nome. No, perché sennò facciamo esattamente quello su cui stiamo cercando in qualche maniera. Noi cercavamo l'ennesimo farmaco miracoloso. Non credo che lei abbia in questo momento titolo per poterlo dire. Sì. No, ecco, però il problema è che cercando dei contatti istituzionali, ma sono tutti impegnatissimi, non si riesce a segnalare un uso che è stato fatto di questo farmaco. Adesso il professore potrà capire di che cosa penso, perché è un uso per via orale di una polvere antivirale che agisce contro le neuraminidasi del virus e che quindi può fermo, dare... Lei cos'è, un medico, Stefano? Anzi... Lei no, è un medico, diciamo che essendo... Che mestiere fa nella vita, per capire? Che mestiere fa nella allora, vita? Allora, io sono laureato in economia politica, ma ho lavorato per 25 anni in Amazzonia. E quindi su con tutto il rispetto e ringraziando per l'intervento, a che titolo lei pensa che... Adesso la prendiamo come che esisto, non faccio lo scandalizzato. Possa essere corretto che io veicoli quello che lei sta dicendo... che nei suoi momenti di cooperazione, importantissimi senz'altro, però lei si occupa di economia, ha conosciuto un medicamento usato in Amazzonia e vorrebbe comunicare l'efficacia di questo medicamento. Ma rivolgo la domanda al professor Enrico Bucci. È una case history che accade in diretta, ecco, così nasce una notizia, così inizia. Se io avessi detto all'ascoltatore, mi dica il nome del farmaco, lo comunicheremo noi, ci faremo tramite, via dicendo, sarebbe iniziato un nuovo filone di narrazione. Esattamente, esattamente. Il punto non è tanto, diciamo, questo è un fenomeno comune, normale, quando si ha interlocuzione tra le persone, ognuno porta una sua esperienza e, diciamo, se non ha un metodo scientifico può scambiare la sua esperienza per qualcosa, diciamo, di particolarmente rilevante. Naturalmente il problema non è che vengono riferite queste cose o che cominciano queste narrazioni, il problema è quando queste narrazioni passano il filtro, diciamo, delle istituzioni che sono di controllo, e per istituzioni di controllo non intendo solo le istituzioni scientifiche, ma anche il controllo e la mediazione che dovrebbe essere, diciamo, costituito dal quarto potere, quindi alla stampa. La mediazione della stampa è saltata perché la stampa stessa, quindi la stampa per dire i media, la stampa stessa e i media stessi sono in questo momento legati alla velocità nella trasmissione della notizia e ad essere i primi a trasmettere una notizia. Piuttosto che non trasmettere una notizia che potrebbe rivelarsi vera, le persone si affannano a trasmetterla in modo da avere per primi, tra virgolette, raggiunti il traguardo. E l'idea è che tanto se poi è falsa non si farà nessun danno. Invece così non avviene, perché ormai è chiaro, moltissime delle fake news non nascono direttamente in rete, ma nascono attraverso un rimbalzo tra la rete e i media, che diciamo si amplifica, un processo che si amplifica, diciamo, in maniera questo sì esponenziale. E quindi se salta questo livello di controllo, un livello che è legato alla deontologia di chi fa informazione, nessuno scienziato potrà mai riuscire a rintuzzare in tempo una cosa come quella di Avigan o altre cose ancora peggiori di quelle di Avigan che si vedono ogni tanto. Devo dire Burioni, che anche lui è un po' entrato nel meccanismo, perché ieri un'oretta intera da Fazio che si alzava quando entrava la Litizzetto, poi ritornava, forse comincia un po' a sovraesporsi, però si era esposto, l'ha detto subito, mai vista partire una sperimentazione per un video su YouTube. Ma ormai si rischia tutti, se si è troppo esposti, di entrare nell'effetto Marzullo, che alla fine la gente ti guarda, qualunque tu cosa dica, qualunque tu cosa faccia, perché è abituata a vedere la tua faccia, diventano delle boe di attenzione e di conforto. Però la domanda che le farò fra un istante, perché abbiamo adesso un secondo di pausa, è capire qual è la porzione aurea a cui noi dobbiamo riferirci, che abbiamo anche il dovere di non allarmare, di dare comunque l'idea di quello che sta accadendo. Non possiamo abdicare al nostro ruolo di mediatori, ma io sarei di dire, piuttosto che mandare la D'Urso, che mandare questi talk interminabili che dicono sempre le stesse cose, mandate dei vecchi film di Totò, mandate le belle commedie italiane, mandate dei film che rilassino le persone molto di più di quanto possa farla questa informazione spettacolarizzata. Pensare che ancora c'è il grande Fratello VIP. Ci fermiamo solo un istante. Ieri abbiamo fornito delle informazioni precise sul comune di Bergamo e qualunque comune vi può dire la stessa cosa. A Bergamo dall'1 al 24 di marzo sono decedute 446 persone residenti in città. Nei 10 anni precedenti, mediamente, nello stesso periodo, erano state 98. Quindi vuol dire che c'è una, si è moltiplicato per 4,5 volte il numero dei morti in questo periodo. Quanti sono stati indicati ufficialmente come morti per coronavirus? 136. Quindi 348 in più della media, solo 136 indicati come, ufficialmente come vittime di coronavirus. Perché? Perché solo quei 136 avevano in precedenza avuto il tampone e quindi erano stati diagnosticati correttamente. Tutti gli altri non hanno neanche avuto il tampone, né prima né dopo il loro decesso, e quindi abbiamo una rappresentazione dell'emergenza che non è reale, secondo me, è molto peggio purtroppo, e lo vediamo nel numero delle salme che abbiamo salutato l'altro ieri nella chiesa del cimitero, nel numero delle urne cinerarie che sono tornate dalla cremazione in altre città. 800240024, questo era il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che si poneva alcune domande sul numero dei morti. Un altro dei temi difficili da trattare, che allo stesso tempo ci ha sovrastato, è diventata un po' la misura di ogni nostro racconto, è proprio quello dei numeri. Ogni giorno abbiamo un bollettino che ci dà dei numeri. Ogni giorno circolano attraverso i social le tabelle con tutti i numeri, parziali, complessivi, provincia per provincia, regione per regione. Un ragionamento e una valutazione su questi numeri quotidiani, su un fenomeno che potrà essere valutato nella sua coerenza soltanto in termini più dilatati rispetto al nostro quotidiano doverlo raccontare, come ci si comporta. Ricordo che ospite il professor Enrico Bucci, che è un biochimico e professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia. Ecco professore, la questione dei numeri. Ogni giorno ormai siamo diventati bravissimi nel fare una rassegna di numeri. Osserviamo tutti i giorni questa liturgia che ormai è diventata immancabile, fa parte delle quotidiane liturgie di chi sta a casa, la conferenza stampa della Protezione Civile che dà dei numeri. Qual è il criterio corretto per porsi di fronte ai numeri? Non voglio valutazioni sui numeri, perché sennò faremmo esattamente quello che, su cui stiamo cercando di portare un minimo di senso. Ma come considerare il tema numeri in questo momento? Allora, lei probabilmente saprà che, diciamo, da molto tempo io mi riferisco a questo fenomeno che lei ha descritto come il rito serale degli italiani, cioè esistono varie culture in cui il numero è magico, ma soprattutto nel marketing si sa che mettendo in evidenza in bella mostra qualche numero si dà un'idea di controllo, cioè di riuscire a descrivere la realtà in maniera così precisa, quando non di fare addirittura previsioni, da dare l'idea che è tutto sotto controllo. E questo è esattamente il motivo per cui tanti italiani seguono ogni sera una comunicazione di numeri che in nessun altro tempo avrebbe avuto così attenzione. Alle 18 c'è il passaparola, fermi tutti, sì, andiamo, si commentano a tempo reale sui social o al telefono con gli amici mentre li stanno dando. Lei deve pensare che in tutti i tempi, in tutte le civiltà, questa tendenza è evidente, cioè basta pensare alla Kabbalah, basta pensare alla numerologia babilonese, basta pensare al significato dei numeri come misura del tempo negli Aztechi, cioè il numero ha un potere. Infatti questo nella l'ho detto, io sto cercando la porzione aurea di informare nella maniera più corretta possibile. Esatto. Ora, però il punto è questo, che in realtà quello che gli italiani, come tantissimi, non hanno capito, è che in realtà la vera virtù della scienza non consiste nella sua estrema precisione, che è solo un derivato, diciamo, di come funziona il metodo scientifico, ma nella capacità di stimare l'incertezza. Cioè il vero numero che a noi dovrebbe interessare non è il numero assoluto che varia di giorno in giorno, le percentuali, i trend e quant'altro, ma l'errore, la stima dell'incertezza agganciato a questi numeri. Se io sono in grado di capire, e io ho cercato di spiegarlo più volte, che questi numeri hanno una serie di fonti di incertezza che li rendono sostanzialmente caotici nel loro comportamento. Ecco, facciamo un paio di esempi, così chi ci ascolta capisce meglio. Le faccio un esempio facilissimo, quello più semplice da capire. Se io ogni giorno comunico il numero di positivi che ho trovato in Italia, ma non dico quanti tamponi ho effettuato, io non so se in realtà l'epidemia sta crescendo o decrescendo, non lo potrò mai sapere. Cioè, se io un giorno trovo 1000 positivi e ho fatto 1001 tamponi, è un conto. Se io un giorno trovo 2000 positivi e ho fatto 1 milione di tamponi, è un altro conto. Ma se io dico che il primo giorno ce ne avevo 1000, il secondo ce ne avevo 2000, sembra che l'epidemia sta crescendo, quando in realtà, guardando invece al numero di tamponi, cioè alla percentuale dei tamponi positivi che ho effettuato, potrebbe essere esattamente il contrario. Questo è un tipico trucchetto. Quindi, in teoria, per assurdo, se io giocassi sul numero dei tamponi, oggi facciamo 50 tamponi in meno, così magari non diamo solo, dei numeri poi, più confortanti. Ma poi attenzione, perché ogni giorno quei tamponi arrivano in mix diverse da regioni diverse. Se un giorno ho 1000 tamponi che vengono dalla Sicilia e uno che viene dalla Lombardia, e un altro giorno ho 1000 tamponi che vengono dalla Lombardia e uno che viene dalla Sicilia, i risultati a parità di numero di tamponi saranno probabilmente molto diversi, perché ho tantissimi positivi in più in Lombardia che non in Sicilia. Quindi a seconda del mix di cui è fatto questo numero totale di tamponi avrò dei risultati diversi. Poi ci sono ancora altri fattori. Però se mi dice così, professore, mi viene da pensare che il valore di quella conferenza stampa è lo stesso, con tutto il rispetto, del Papa che fa la sua ostensione davanti alla piazza vuota, grande valore emotivo, ma dal punto di vista proprio di dato scientifico che aggiunge qualcosa è pari allo zero. Il dato scientifico che si ricava da quei numeri è molto basso, ed è molto più utile invece andare a vederli scorporati nelle tabelle che pure vengono fornite. I numeri comunicati in quel modo non ci dicono niente, e del resto se ne sono resi conto, perché dopo un po' di tempo che lo sottolineavamo in parecchi, diciamo che questo tipo di fonti di errori, ma diciamo anche altre, adesso sembra che il tono della comunicazione sia un po' più cambiato. Cioè, ora si danno i numeri, ma perlomeno si evita di dire che abbiamo un trend positivo o negativo. Naturalmente parlo di quella nazionale, non parlo poi magari di qualche governatore che invece comunica l'entusiasmo in maniera prematura. L'unico valore di quei numeri è un altro, cioè ci dice quanti posti in ospedale sono in questo momento pieni, e quindi ci dice quanto sotto stress è il nostro sistema ospedaliero nazionale, meglio ancora se li andiamo a guardare a livello regionale. Quindi quella conferenza stampa dovrebbe essere, se uno volesse dare valore ai numeri, cioè se uno volesse usare i numeri per comunicare, dovrebbe essere organizzata in maniera totalmente differente da com'è, e dovrebbe comunque essere accompagnata, come dire, da un'opera di spiegazione del significato dei numeri prima di dare i numeri. Cioè, che cosa do come informazione e perché lo do? Questo è il punto fondamentale. È un po' difficile cambiare in corsa, però, quando un rituale ormai si è consolidato e se ne nota indubbiamente l'effetto catartico nelle persone che lo seguono, cambiare il rito adesso significherebbe rimettere in discussione tutto il sistema e tutta la linea di comando. Stiamo però solo un attimo, Giuseppe, provincia di Pesaro. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buona salute e un forte abbraccio a Tommy. Grazie. Io per sapere cosa succede tutti i giorni, io mi sono andato a riprendere, lo rileggo i due capitoli, il 31 e il 32 dei Promessi Sposi. Lì c'erano due storici, chiamiamoli così, il Tadino e il Ripamonti, dai quali il Manzoni è andato a ricavare poi le storie, no? È uno specchio completo, non deformato, sono le stesse cose che succedono adesso. Faccio un esempio concreto, così. Un esempio concreto, io non lo so, credo che, come si chiama quella signora che va a dire il rosario con Salvini, è la stessa cosa di Ripamonti, che fa delle deduzioni, fa un racconto del quale il Manzoni va a tirar fuori il comportamento del viceré che aveva avuto nato il figlio. Cioè, sono di queste cose qui che nel 1650 più o meno succedevano queste cose, e in maniera riflessa, con un altro tipo di visione, succedono adesso, perché c'è un padre Livio che dice si arrabbia perché non possono dire la messa, un altro che va a dire il rosario in una, cioè che roba è quella? È meglio mettersi Giuseppe, a studiare, leggere come sono le cose. Ho per natura un profondo rispetto per tutte le convinzioni, le guardo con interesse e curiosità, ma io ho visto quotidiani italiani portare la notizia della nuvola forma di Madonna che apparsa sopra il Papa, e adesso vedo lanci l'agenzia, il presidente Conte va dal Papa. A meno che il Papa metta a disposizione degli ospedali del Vaticano, ci dia aiuti particolari, metta risorse, il fatto che il Presidente del Consiglio vada in forma privata dal Papa sono fatti suoi, non è rilevante ai fini di quello che sta accadendo, eppure fa parte comunque delle notizie che in questo momento stanno girando. Professor Bucci, come ci si comporta da un punto di vista laico ma rispettoso comunque di tutte le declinazioni del credere universale di fronte a queste indubbie cadute? C'è stata proprio la polemica sulle chiese aperte e chiese chiuse, Dio mio, volete impedire alla gente di andare a pregare, quando penso che una visione metafisica non ha bisogno di un luogo fisico in cui esercitare il suo contatto con l'assoluto. Ma guardi, io più che pensare agli aspetti metafisici in questo momento sono profondamente preoccupato per tutte quelle strutture, particolarmente nell'Italia meridionale, che forniscono assistenza ai senza tetto, assistenza ai diseredati di varia natura. Ne conosco parecchie, sono strutture in cui per esempio si distribuisce un pasto caldo oppure si dà la possibilità di fare una doccia e quant'altro. Questi sono tutti potenziali luoghi di contagio, quindi molti parroci hanno cominciato a chiuderle, però non sono state sostituite con null'altro, cioè con nessuna struttura per esempio di tipo militare con tendoni dove questi possano trovare un'assistenza. Tutti questi individui che sono a questo punto più abbandonati a se stessi di quanto non fossero già prima, in realtà sono tutti soggetti a rischio, sia proprio personale che a rischio di diventare dei vettori, e particolarmente nelle città del sud sono molto esposti a fenomeni di assembramento e a fenomeni diciamo di diffusione della malattia. Dico particolarmente nelle città del sud per semplice ragione climatica, cioè queste persone molto spesso a sud dormono nelle stazioni, dormono in luoghi aperti, e quindi sono non hanno più adesso neanche dove andare a mangiare, neanche dove trovare sì, ma tutte le mense sono chiuse, quindi esatto. Diciamo la carità cristiana si esercita attraverso forme ammirevoli, ma in questo caso possono essere anche molto pericolose. Ecco, su questo altro difficile equilibrio ci finiremo di interrogare fra un istante dopo la successiva pausa, ma dura poco un istante. Melog 800240024, siamo lasciati con il professor Enrico Bucci, ricordo, biochimico, professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, su un altro punto difficile da raccontare, difficile da valutare, quanto in questo momento la buona volontà o il senso di solidarietà spontaneo in alcune parti della società che in maniera precipua e per loro vocazione, per loro destinazione, per loro scelta, sono sempre occupati delle fasce più emarginate, possa in realtà diventare addirittura pericoloso e debba comunque rientrare nell'agenda di chi sta occupando in generale di tutta l'emergenza. Lei ci faceva un esempio importante, che era già diciamo nelle scalette delle prossime trasmissioni che faremo, quello è il problema degli ultimi, di quelle persone che non hanno nemmeno una casa, nemmeno una possibilità di andare a protestare al supermercato perché non hanno i soldi per la spesa, e quelli che vivono per strada, di cui in questo momento qualcuno comunque, anche se in maniera limitata, si sta occupando. Perché qua si potrebbe creare, secondo lei, un nuovo focolaio pericoloso di infezione? Quale sarebbe la soluzione che lei potrebbe suggerire, professore? Guardi, la soluzione è quella che, la soluzione, cioè la pretesa soluzione, diciamo così, il suggerimento, di diciamo, soluzione non ce l'ha nessuno oggi. Che, esatto, è quella che si sta studiando nelle città americane, come per esempio San Francisco, che diciamo, ha da sola una popolazione minima stimata di 50.000 senza tetto. Voi sapete che ovviamente negli Stati Uniti è rampante in questo momento il virus, ancora più che non in Italia, e l'idea è quella di utilizzare delle grosse strutture militari all'esterno della città, strutture mobili militari in cui ci sono queste docce autodisinfettanti e delle mense che sono organizzate in maniera tale da distanziare di più le persone tra di loro. Chiaramente non si può dare ricovero per la notte, però perlomeno si può evitare che le persone si infettino quando si riuniscono per mangiare o diciamo quando vanno a cercare di lavarsi in queste strutture che ospitano. Naturalmente queste strutture sono state rese disponibili dalla protezione, dall'esercito e dalla Guardia Nazionale statunitense. Quindi in Italia, per pensare a una cosa del genere, bisognerebbe prima di tutto capire se noi abbiamo delle disponibilità di montare strutture come quelle che di solito invece montiamo in paesi come l'Afghanistan o in Africa. L'idea potrebbe essere quella. L'altra, diciamo, possibilità è che queste persone in qualche modo siano controllate e monitorate per quello che riguarda la loro infezione con il virus proprio nei luoghi dove vanno a cercare cibo. Test rapidi, diciamo relativamente rapidi, si possono organizzare, e questa potrebbe essere un'altra possibilità. Onestamente però tutto questo prevederebbe uno sforzo di coordinamento che solo la stessa Chiesa, che conosce e mappa tutti questi posti, potrebbe fare. In assenza di una collaborazione da parte della Chiesa questo è sostanzialmente impossibile. Lo Stato non ha contezza di dove sono questi posti, né ha la gestione di questi posti capillare che la Chiesa ha. Questa è la mia opinione. Però vede, tutte le sue riflessioni, che reputo importanti, se no l'avrei chiamata in questa trasmissione, danno l'idea che alla fine servirebbe, non voglio dire una cabina di comando, che è un termine che va oltre tutte quelle che sono le garanzie istituzionali, ma un vero comitato di persone che abbiano strumenti ed esperienza per riflettere su questi casi. Questo è un fenomeno di cui ancora si parla poco, se ne parla perlomeno in termini, nei soliti termini pietistici, sono i poveri persone senza tetto di cui bisogna occuparsi, portiamo dei pasti caldi, via dicendo, però non ci si rende conto che in questa fetta degli ultimi tra gli ultimi che esistono nella nostra società, abbiamo sempre fatto finta di non vederli o ci siamo accorti loro soltanto per le feste comandate, quando sotto Natale bisognava tutti sentirsi buoni e via dicendo, avevano comunque una rete di assistenza, per quanto sia, che permetteva loro di sopravvivere, fatta di persone di buona volontà, di volontari, di gente che univa alla professione di fede un attuare pratico tutti i giorni di quello che è il loro convincimento, la loro visione della vita. Ecco, però non hanno gli strumenti in questo momento di agire in questa circostanza, perché è una circostanza nuova che sconvolge tutte le competenze precedenti. Io penso il buon signore che si occupava per la Caritas di portare il cibo ai senza tetto, oggi fra l'altro non può uscire perché è anche lui soggetto a rischio. Comunque sia, le persone che se ne possono occupare non è detto che abbiano le cognizioni o le nozioni base che lei sta in questo momento elencando, perlomeno il caso di San Francisco, è la prima volta che ne sento parlare in Italia, che esistono dei paesi che si stanno occupando anche di questo, di sterilizzare, pulire e dare delle condizioni generiche. Stanno pensando di occuparsi, diciamo, più che stanno occupandosene, perché poi anche lì tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi ci sono dei posti dove questo si sta facendo, ci sono tantissimi posti dove invece non si sta facendo. Negli Stati Uniti 0024, vorrei anche su questa parte della nostra trasmissione dire al nostro pubblico se rispetto a questa ultima parte del problema, di cui ci occuperemo in maniera più dettagliata in successive trasmissioni, qualcuno di voi ha dei punti di osservazione privilegiati, degli indicatori. Io ho sentito un'amica mia, una bravissima persona, l'altra sera, che si occupa di un po' di senza tetto qui nel quartiere Prati, da cui sto trasmettendo da casa mia questa trasmissione, e anche lei va, gli porta dei pasti caldi, via dicendo, ma probabilmente anche lei non ha gli strumenti per capire qual è il giusto approccio con queste persone, perché nessuno sa cosa facciano poi durante la giornata. Noi siamo tutti più o meno controllati o controllabili, ma queste persone che vivono negli interstizi delle città, che raramente escono, che vivono in piccole comunità accampate, lungo il Tevere ci sono dei tendaggi, degli accampamenti, lo stesso quartiere dove vivo io, nottetempo si vedeva la gente che andava a rovistare nei cassonetti per prendere i materiali da poter rivendere. Sono tribù che sono scomparse. Come pure, professore, domanda che mi faccio, visto siamo sul tema, che fine hanno fatto ad esempio tutte le persone che stanno davanti ai supermercati a chiedere l'obolo, tutte le persone che lavavano i vetri, tutte le persone che vivevano nei margini con piccole attività tollerate ma fuori da ogni legalità, che in questo momento sono scomparse? sembra che questo problema sia scomparso dalla nostra società, sia avvenuto la società ideale che molti si auspicavano, pulita, senza stranieri, senza gente diversa. Ma in questo momento tutta questa gente, secondo lei, come si sta comportando rispetto all'emergenza? Da quello che è il suo osservatorio, naturalmente. Sta chiaramente, ovviamente, tirando la cinghia e vivendo di esperienti, ma voglio dire, non sono scomparsi solo loro, sono scomparsi anche tutti quelli che lavoravano in nero e che non avranno ovviamente nessuna possibilità di avere accesso agli ammortizzatori sociali degli ultimi decreti. Ora, il lavoro nero, tanto per fare un esempio, è quello che sostiene tantissimo la produzione agricola in tutta Italia, quindi anche noi avremo conseguenze dal fatto che queste persone sono sostanzialmente invisibili e sono dipendenti da un aiuto volontario che in questo momento non è sostenibile. Cioè, quello che noi realizzeremo, e lo realizzeremo all'improvviso, è quanta parte della nostra stessa economia è mossa da lavoro nero, diciamo, io non parlo di lavoro nero nella criminalità o agganciato a chissà quali cose, ma lavoro nero nelle campagne, lavoro nero nelle industrie, lavoro nero dappertutto, che è una cosa che noi sempre abbiamo saputo esistere, che in questo momento peserà molto di più perché queste persone dovranno sostanzialmente scomparire, e poi anche avremo appunto rischio di picchi di ritorno se non ci occuperemo dei poveri. Quindi se non ci occuperemo di queste persone e cominceremo a testare solamente chi deve tornare al lavoro nelle industrie, dimenticandoci che esiste una fetta di popolazione invisibile, noi rischiamo di non raggiungere l'immunità di gregge per il semplice fatto che non mettiamo nel computo anche questi. Questi che non sono i dati ufficiali rischiano di mantenere più bassa la frazione di soggetti immunizzati in giro per l'Italia. Quindi stiamo valutando un'analisi, uno spaccato della nostra società che ancora una volta non tiene conto delle persone che vivono in maniera invisibile, sommersa o diversamente collocabile nella nostra società. In questo momento, in un momento in cui il contagio è la fonte primaria di ogni preoccupazione e ogni ansia, è pericoloso. Certo, perché noi non li vediamo, ma il virus sì, e quindi da questo punto di vista non fa assolutamente le distinzioni che facciamo noi. Ecco, questo tipo di stanze, secondo lei, in Italia c'è qualcuno che le sta perlomeno proponendo, portando avanti, mettendo nell'agenda, al di là dei problemi primari, mancanza di respiratori, mancanza di mascherine, ma quello che sta dicendo lei non mi sembra averlo letto ancora da nessuna parte. Non l'ha letto da nessuna parte, perché anche diciamo chi lavora sull'emergenza deve seguire appunto l'emergenza, e quindi si preoccupa ancora poco del dopo, cioè del fatto che a un certo punto dovremo stimare se abbiamo raggiunto l'immunità di gregge e cominciare a riaprire pian piano l'Italia. Questo diventerà un problema, come al solito, è una bomba a orologeria che sarà, i cui effetti arriveranno dopo, cioè gli effetti sulla produzione, gli effetti sulla salute pubblica di queste cose sono un po' più rallentate rispetto alle bare che escono da Bergamo, e quindi peseranno particolarmente dopo. E peseranno particolarmente dopo anche perché sono dei problemi particolarmente acuti nel sud d'Italia, dove in questo momento il virus non è ancora a livelli elevatissimi. Certamente devo dire che in questi giorni io comincio a sentir parlare di bomba sociale, di allarme sociale, quindi spero solo che la preoccupazione non sia in termini, come dire, di contenimento, ma sia anche in termini di organizzazione di aiuti. Io vedo, anche se io non sono cattolico, sono totalmente ateo, però seguo da vicino che cosa fa la Caritas attraverso le informazioni che dà la Caritas, vedo che nell'ambiente cattolico qualcuno si sta preoccupando, e spero, confido sul fatto che anche tra breve gli epidemiologi e altri ricercatori con cui io collaboro diano un segnale forte su questo. Noi abbiamo bisogno di numeri, cioè avremo bisogno di sapere questi quanti sono. Se sapessimo quanti sono, saremmo anche in grado di dire: guardate che o ce ne prendiamo cura o altrimenti noi ritardiamo il momento in cui si potrà riaprire l'Italia. Io la ringrazio, professor Enrico Bucci, per le cose originali che ci siamo dette questa mattina. Ringrazio Filippo Reggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza e Fabrizio Intonti da casa sua. Alla prossima.